La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:31 primi 13 secondi in diretta da Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazio per l'ascolto in diretta o in podcast. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. E dico subito agli amici del parco di Velia e del Cilento che ho ricevuto, quindi vedremo di occuparci di quello che ci segnalate per il parco, quindi vedremo di farne una trasmissione visto quello che sta succedendo. Di che cosa parliamo invece oggi? Di un aspetto di quello che sta succedendo nel mondo del lavoro italiano a cui io credevo di aver posto mente, ma ieri mi sono reso conto che non avevo capito abbastanza bene, e devo dire, di fronte ai numeri elaborati, ora vi dico da chi vi presento l'ospite, ho avuto una dimensione ancora più grave di questo problema. Di che cosa parliamo? Di una tendenza che è in atto nel mondo del lavoro italiano, in presenza del fatto, lo sapete, che nel post Jobs Act e grazie ai sia pur asfittici tassi di ripresa dell'economia italiana abbiamo iniziato a macinare un po' di centinaia di migliaia di occupati aggiuntivi rispetto a quello che avevamo perso nel dopocrisi fino a 3 anni fa. Ecco, a me era chiaro, questo si capisce dai numeri Istat, dagli tanti approfondimenti di ADAPT a cui ricorriamo per interpretare meglio i dati del mercato del lavoro, è chiarissimo, più volte ne hanno parlato, anche, abbiamo parlato anche in Asso Lombarda, come uno degli aspetti positivi dell'andamento occupazionale, era che andando a vedere gli occupati aggiuntivi, ve lo ricordo, sì, soprattutto per effetto della persistenza al lavoro di coloro che sono stati investiti dalla riforma Fornero, risulta che ci sono occupati aggiuntivi soprattutto sugli over 50 piuttosto che nelle altre corti di età, cosa negativa. Però detto tutto questo, c'era un dato che sì, tra gli altri era rilevante, cioè il fatto che cresceva in maniera significativa nei nuovi occupati la percentuale, il numero in termini assoluti di coloro che avevano un titolo di formazione terziaria, cioè i laureati, rispetto ai diplomati o titolo ancora inferiore, e questo aspetto era considerato il più delle volte indicato come un aspetto positivo, significava un miglioramento della media del capitale umano impiegato. Se non che ieri, al di là di questo dato, che è un dato reale, è confermato ovviamente, ieri un approfondimento attraverso un nuovo numero di Congiuntura REF è un centro studi di interpretazione degli andamenti e previsioni economiche tra i più autorevoli e affermati nel nostro paese, mi ha fatto fare un salto alla sedia, perché sì, è vero che è così, adesso ripiegheremo un po' di numeri, però in un quadro che ha dei segnali più negativi che positivi, perché se andiamo a vedere, io la metto giù in termini non tecnici adesso, ma per farvi capire di che cosa parleremo, nella realtà questa maggior percentuale sul totale degli occupati aggiuntivi e sul totale a quel punto assoluto degli occupati di laureati rispetto a prima non va a coprire mansioni, il vecchio mansionario, ve lo ricordate, mansioni che in realtà sono proporzionati, adeguati alle maggiori competenze, oppure skills come si dice in inglese, acquisite con la formazione. No, vanno ad, tra virgolette, aggravare un fenomeno, adesso lo spiegheremo meglio, che si chiama over education, cioè c'è una forbice che si sta aprendo tra posti di lavoro e chi ambisce a ricoprirli pur avendo una formazione molto più elevata ed avanzata di quella i cui posti di lavoro vengono domandati, e loro si offrono per questo. Ne abbiamo riparlato stamattina a proposito di un caso che ha fatto discutere in questi giorni sui giornali, il famoso concorso con 85.000 candidati alla Banca d'Italia, e proprio stamattina, parlando con un rappresentante dei lavoratori della Banca d'Italia, diceva: beh, certo, in questo concorso chiedono per una qualifica molto bassa, la laurea magistrata è un punteggio molto elevato del diploma, ci sarà un problema, perché ovviamente in realtà le mansioni sono mansioni di tipo tecnico, ma tra le più basse che ci siano in Banca d'Italia. Ecco, questo esempio per fare capire che cos'è l'over education. E poi ulteriore cosa che veramente non avevo apprezzato in queste quantità, Uno direbbe, beh, ma questo in realtà è un segno che, seppur in percentuale magari non molto elevate, ma stanno crescendo i posti di lavoro a elevata competenza, high skilled, quelli che ci servono per fare più produttività. Sorpresa? No. Ecco, e questo è ancora più serio come problema. Mi rendo conto che parlarne per radio senza avere di fronte, come si potrebbe fare in televisione, una lavagna per farvi capire un po' di numeri è un limite. Però stiamo parlando di un fenomeno molto trascurato nell'interpretazione dei andamenti del mercato del lavoro, perché lo sapete meglio di me, a ogni release di nuovi dati, ieri quella del mese di maggio sul mese di aprile, parte il solito combattimento per dire l'effetto del Jobs Act, no, guardate che però si sta tornando a una quota molto elevata di tempo indeterminato. Al di là della contesa molto politica sulla quota di determinato, tutele crescenti, esauriti le forti decontribuzioni e quindi l'effetto del Jobs Act, qui siamo in presenza invece di tendenze strutturali, alcune delle quali, queste che vi ho detto, sono abbastanza preoccupanti. Cioè noi possiamo avere più occupati aggiuntivi, ma possiamo avere questi due fenomeni, l'over education e la diminuzione invece che l'aumento di posti di lavoro nelle competenze elevate, che significano cose su cui bisogna riflettere molto approfonditamente. Allora, io magari nella sintesi ho detto stupidaggini, e quindi intanto vi presento e ringrazio per essere con noi uno dei redattori, anzi dei coordinatori di Ref Ricerche, che mestiere appunto fa l'economista, Fedele De Novellis. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi. Corregga immediatamente qualunque sciocchezza abbia detto nella sintesi. No, non c'è molto da correggere, anche perché credo che quello che lei ha riassunto sia nel vissuto di molti dei nostri giovani e non più giovani, che avendo fatto un investimento per migliorare il proprio livello di scolarità, poi dopo non hanno trovato un impiego in cui applicare quello che l'istruzione gli avrebbe potuto permettere. E siamo sostanzialmente nella migliore delle tradizioni del nostro paese. Dobbiamo ricordare che c'è un'offerta di lavoratori. Aspetti, quando lei dice che siamo a confermare una tradizione del nostro paese, è sempre stato così anche prima degli anni di crisi, negli anni 80-90? Diciamo che se noi confrontiamo i numeri recenti con quelli del 2007, come abbiamo fatto, già il fenomeno dell'over education, cioè della tendenza dei lavoratori con un laurea o un diploma a fare un lavoro per cui non sarebbe necessario questo tipo di studio, queste quote erano già alte. Nella fattispecie negli ultimi anni è aumentato il fenomeno della sovraistruzione per i diplomati, si è ridotto un pochino per i laureati, però do due numeri così ci capiamo. Tra i laureati oggi abbiamo preso la classe di età 30-35 per avere un pochino il quadro delle persone che sono oramai nel mercato del lavoro da qualche tempo, cioè per evitare quella fase iniziale in cui si accetta un po' tutto, no? E quello che vediamo è che il fenomeno della sovraistruzione tra i laureati oggi coinvolge ben il 42% delle persone di questa classe di età, cioè 4 laureati su 10 fanno qualcosa per cui non serve la laurea, ma nel 2007 comunque erano addirittura il 48%, un po' di più. Nel caso dei diplomati invece questa quota è aumentata, eravamo al 40%, siamo al 55%. Ora, dire che il 55% dei diplomati di quella classe d'età fa un lavoro per cui non sarebbe neanche necessario un diploma, ci dà l'idea della domanda di istruzione sostanzialmente che è bassa. Cioè noi possiamo studiare, ma poi se le imprese non vogliono dei laureati, non richiedono, perché è la struttura produttiva che non esercita. De Novellis, qui c'è un punto classico da parte dell'impresa. Le imprese dicono: noi non è che non li vogliamo, ma il problema è che la formazione, il piano di studio del ciclo della secondaria pubblica e anche del primo e del secondo gradino di quella terziaria, cioè laurea breve e magistrale, in realtà non è quello che ci interessa, tant'è che noi li assumiamo un po' a prescindere dal titolo. E poi dobbiamo riformare da capo per quello che ci serve. È fondata o è una scusa? Sicuramente dei meccanismi per migliorare la transizione scuola-lavoro sarebbero utili. Però ci sono anche altre evidenze che ci dicono che comunque l'Italia non sta realizzando quella transizione verso, come dire, quella struttura produttiva che richiede skill molto avanzati. Mm. E d'altra parte dobbiamo ricordare che un altro fenomeno che si accosta a quello della sovraistruzione è quello cosiddetto classico del brain drain, cioè la fuga dei cervelli. La fuga dei cervelli. Cioè questi giovani. Sì, qui voi date un numero clamoroso, perché insomma è aumentato al 55% in 10 anni, e il numero di coloro che gli italiani all'estero sono 4,9 milioni e l'85% è laureato e ne fa un buon uso. Queste sono le parole ultime proprio della vostra nota. Che fa chiaramente capire qual è la proporzione del brain drain. Poi, voglio dire, malgrado la ripresa italiana, io poi sono dell'idea che ovviamente viviamo in un mondo globalizzato, non bisogna considerarla una specie di perdita, a meno che ovviamente non siamo poi capaci di rilanciare dei ponti e di fare network nei confronti di chi poi è andato fuori, gli facciamo passare la voglia di tornare qua. Ma ce ne siamo occupati in una serie lunga di trasmissioni 2 o 3 mesi fa, vi ricordate, quando abbiamo fatto le trasmissioni in Italia Non per Giovani, chiedendo a molti di voi che ci ascoltano dall'estero di spiegarci perché avevate fatto quella scelta e se volevate tornare o meno indietro. Quindi è un punto che resta aperto. Ma a questo si aggiunge una terza osservazione. Abbiamo visto quello dell'osservazione dell'over education e abbiamo dato i numeri di qual è alta la percentuale dei diplomati e laureati, che a oggi più del 50% dei diplomati, 40% dei laureati in realtà è nel mondo del lavoro, nella classe, nella corte 30-35 anni, ma non per quello che ha studiato. Abbiamo visto il brain drain, ma la questione poi ancora più preoccupante è quella che appunto viene misurata in questo rapporto RF sull'andamento delle professioni high skill o low skill, cioè quelle, le competenze elevate, diciamo così, o le più basse competenze. Come è ovvio, le competenze più elevate sono quelle che contribuiscono di più alla componente di produttività del fattore lavoro, del capitale umano nella produttività multifattoriale, che è fatta dalla somma del capitale umano, del capitale fisico con cui si produce, del capitale immateriale, i brevetti, le idee, il design depositato, eccetera, eccetera, e ovviamente il capitale finanziario. Ma come ovvio, se il capitale umano ha professioni a elevata competenza, lì c'è una componente di produttività più elevata che entra in campo. E invece la valutazione che fa questa nota del REF è clamorosa. Io mi sto sostituendo a Fede Novellis per informarvi del fatto che, siccome è caduta la linea, io sto col rapporto in mano, sto dicendo io quello che avrei chiesto a lui di interpretare. Ecco, ma il punto è che se andiamo a vedere rispetto al 2008 e facciamo mente al 2016, noi abbiamo la bellezza di 600 e rotti mila occupati in meno negli high skilled, e invece la cosa è recuperata in quelle a bassa competenza. Allora, ecco, io una dimensione di queste proporzioni non me la sarei mai aspettata. Naturalmente questo riguarda non solo nella produzione manifatturiera, riguarda le professioni a più alto valore aggiunto nei servizi, riguarda le figure a più alto valore aggiunto e professionalità più elevata nella pubblica amministrazione, cioè nei servizi pubblici. Allora, è una perdita di dimensioni molto clamorose. È vero che dal 2012, ci dice il REF, questo baratro nelle figure professionali a più elevata competenza è in via di parziale recupero, ma la tendenza, il numero assoluto è quello che vi ho detto, ed è un numero incredibile. Poi possiamo riempirci la bocca di industria 4.0 e così via, ma se dal 2008 al 2016, con segni di recupero dal 2012, la quantità e la percentuale, ma anche la quantità in termini assoluto di figure professionali più elevate, e di queste proporzioni, beh, vuol dire che lì c'è davvero un problema che riguarda la domanda, le imprese, l'industria, la manifattura, i servizi. Cioè lì c'è un problema strutturale, grande come un grattacielo. Traffico e poi torniamo. Il la versione di Oscar. Allora, siamo tornati in diretta, è tornato con noi Fedele De Novellis. Abbiamo visto il fenomeno dell'over education, cioè diplomati e laureati che in percentuale molto elevate, 40-50%, trovano un lavoro ma non coerente la loro formazione. Abbiamo visto l'importanza, purtroppo il peso crescente del brain drain, dei cervelli che se ne vanno, ma sorpresa la quantificazione degli occupati a elevate competenze. Ecco, ne abbiamo perso rispetto al 2008 660.000. È vero che in quelle a più basse competenze, insomma, ne abbiamo guadagnati 150.000, ma questo dato di queste dimensioni mi ha molto durissimamente colpito. È vero, ve l'ho detto, 2012 siamo in ripresa, ma è un baratro rispetto al 2008. Fedele De Novellis, cosa ci dice questo numero, che è quello che mi ha colpito di più? Perché qui è un problema vero che riguarda la domanda, dall'industria alla manifattura, ai servizi, perché in realtà la perdita riguarda quasi tutte le professioni, quindi i servizi alle imprese esternalizzate e così via. Ma sa che non l'avevo mai visto in queste proporzioni questo numero? Beh, questo è un numero che in realtà ci racconta la crisi, quindi anche un fattore macroeconomico, il collasso di molte posizioni dirigenziali nell'industria, quindi parliamo anche di un fenomeno macroeconomico, non solo di un fatto strutturale. Certo però che in Italia non si è vista quella ricomposizione al rialzo della struttura produttiva, quasi anzi addirittura la tendenza a rifugiarsi in alcune occupazioni di base spesso residuali, cioè tentativi di resistere, e quindi tentativi di resistere che sono fatti su impieghi anche alle volte basic. Adesso cito aspetti della nostra struttura economica che impressionano, che so, la sharing economy, la diffusione dei bed and breakfast, piuttosto che di una serie di altre attività che naturalmente vanno benissimo, perché ovviamente fanno mercato del lavoro, fanno economia, aiutano i redditi delle famiglie. Però sono classicamente a bassa qualità del lavoro e a bassa competenza. Non sono i driver della total sector productivity, esatto, come diciamo noi. E quindi il rischio è, ben vengano queste attività se consentono di resistere, ma naturalmente quello che sembra di non vedere è un traino da parte di un nucleo di imprese forti in grado di portarci verso posizioni di leadership anche nella competizione internazionale. E questo, a mio avviso, ha a che vedere in parte anche con il fatto che c'è stata una persistenza di modello di specializzazione, in alcuni casi perché siamo più forti, certo, in alcuni settori, però è anche forse un problema che sta emergendo da quando la globalizzazione, le catene del valore si sono sempre più disintegrate, forse il nostro modello della piccola impresa, esatto, ha delle difficoltà a trovare una collocazione. In alcuni casi ce la fanno, però non c'è una numerosità sufficiente da parte di medie imprese che riescano poi a collocarsi in queste catene globali del valore, dove sono le imprese dove naturalmente i ricercatori, quelli che sostanzialmente fanno le attività più skilled, possono dare un contributo maggiore al sistema economico. Allora, noi abbiamo qui adesso un esempio, perché tra i nostri ascoltatori c'è un'ascoltatrice che è un po', la rappresentazione nella sua vita professionale di un pezzo di quello che vi abbiamo descritto, perché noi stiamo parlando di una laureata in scienze biologiche, poi dottore di ricerca in terapia genica e immunoterapia del tumore, una specializzazione in patologia clinica, una abilitazione conseguita per fare il professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale anatomia patologica, una abilitazione a fare il professore universitario di seconda fascia in biologia applicata, una terza abilitazione alle funzioni del professore universitario di seconda fascia nel settore scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche, un ulteriore master in bioetica per le sperimentazioni cliniche e i comitati etici, un'ulteriore abilitazione alle funzioni del professore universitario di seconda fascia per le storie patologia generale e patologia clinica. Quindi, come vedete, è un percorso professionale intemerato. Eppure questa nostra ascoltatrice a oggi è assegnista di ricerca. e io lo dico con pieno rispetto ovviamente al Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche, Istituto di Anatomia Patologica dell'Università di Udine, però come vedete qui stiamo parlando di un caso eclatante di mismatch tra le abilitazioni, il percorso seguito, le skill concentrate, la fatica personale che ha fatto, ma ovviamente anche l'investimento pubblico che è stato necessario, e la maniera in cui dopo tanti anni in realtà il mercato del lavoro, in questo caso settore sanità, le ha domandato rispetto alla sua offerta. Io la ringrazio di essersi resa disponibile per questa testimonianza, grazie di essere con noi Giorgia Gri. Buongiorno. Come Buongiorno. Posso chiederle dove trova la forza di resistenza dopo tanti anni e tutto? Io il suo curriculum l'ho riassunto sinteticamente, perché sono pagine e pagine, molto più lungo, e dovendo fare, e lo dico con rispetto per lei e i suoi colleghi, l'assegnista di ricerca. È molto difficile, è sicuramente una difficoltà quotidiana quella che io devo affrontare. E la spinta è soprattutto la passione per il mio lavoro, però questa spinta sta scemando con gli anni, con la fatica di non vedere mai riconosciute le proprie capacità, il proprio impegno, la propria, anche i risultati ottenuti. I risultati, perché questi sono risultati, non è potenzialità, sì. Questi sono risultati certificati. Che nessuno te li regala. Le abilitazioni non è che te le portano con l'aeroplanio di carta in casa, no? Direi. Certo, ma è molto, molto difficile trovare motivazioni. Infatti, come diceva bene il professore, è chiaro che io adesso cerchi di sopravvivere facendo altro. Cercherò di sopravvivere facendo altro, perché non posso dedicare così tanto impegno in qualcosa in cui adesso non credo più. Cioè non credo in un futuro per me, magari per i miei figli, ma per me non lo vedo a portata di mano. L'avrei mai pensato? Da quando hai iniziato a, tra virgolette, no, capire? No, non l'avrei mai pensato, mai. Non avrei mai pensato di arrivare a avere 4 abilitazioni a professore e essere assegnista di ricerca. No, non l'avrei mai pensato. No. Io veramente non mi sento così una nullità in confronto, che non riesco, no, una nullità rispetto a, perché ho idea di quanta fatica significa conseguire tutte queste cose nel percorso, scrivere 42 pubblicazioni, esatto, cioè appunto, sì. Quindi ecco, non, sì. Cari ascoltatori, capite bene di che cosa stiamo parlando, ecco, e l'Italia in questo è un falò di capitale umano, capite? Questo è uno spreco, certo. Incredibile, perché è uno spreco che segna una vita e tante vite come quella di Giorgio, ma che significa che noi le risorse che utilizziamo, perché sono risorse concentrate che escono dalle nostre tasche di specializzazione, di eccellenza, perché qui stiamo parlando di uno dei settori in cui siamo, grazie al cielo, eccellenze mondiali nella life science e così via, e poi come le traduciamo in concreto, come le scarichiamo a terra in questo modo, sinistra di ricerca. Ecco, io più che abbracciare Giorgio e tutti i suoi colleghi in queste condizioni e ringraziare moltissimo per i numeri che Ref Ricerca e il professor De Novelis vi ha spiegato, questo 660.000 posizioni ad elevate competenze in meno rispetto al 2008 è un dato veramente duro su cui riflettere. Continuate su Radio 24, appuntamento con me Alessandro Mina come sempre domani alle 8:15, attenti alle 2 fino alle 9:30.